e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Le presento la nuova ballada, ha un ritmo davvero originale ed è la prima asuendo sociale, perché io penso che è necessario fare qualcosa per le casse dell'erario, e voglio dire ai ragazzi e alle ragazze, bisogna pagare le tasse. Si tiene la barca, bisogna pagarle, su questo non discutiamo, ma bisogna anche pagarle bene, senza commettere errori, senza sbagliare, perché commetterlo un errore nella nostra dichiarazione dei redditi, nel pagare le tasse che volenti o nolenti ci aspettano, può significare in alcuni casi commettere un reato. Non vogliamo spaventarvi, ma rendervi consapevoli e doppiamente attenti per evitare questa eventualità. Una delega fiscale attuata dal governo la settimana scorsa modifica i reati fiscali, ma anche le possibilità di estinguerli e cancellarli. Noi oggi, allora, nella prima parte di Cuore e Denari, cerchiamo insieme di capire per bene cosa succede e in quali situazioni bisognerà tenere gli occhi bene aperti. Cominciate subito a chiamarci all'800 24 00 24 se volete raccontateci se vi è mai capitato di essere multati per un errore nel pagamento delle tasse, fatto totalmente in buona fede, quanto vi è costato. Tirate fuori tutti i vostri dubbi in materia di fisco e reati tributari, perché nella prima parte di Cuore e Denari il nostro esperto sarà pronto a rispondervi e naturalmente speriamo a rassicurarvi. Mentre la notizia che ha ispirato la parte di Cuore riguarda proprio un farmaco che viene da tempo considerato amico del cuore. Parliamo dell'aspirina, che certo tutti noi conosciamo bene. Una task force del Servizio di Prevenzione degli Stati Uniti ha infatti incluso l'acido acetilsalicilico, questo è il principio dell'aspirina, tra le armi a disposizione per prevenire il tumore. Allora, dell'azione anticancro dell'aspirina si discute da tempo, diversi studi clinici hanno suggerito che specialmente per alcune forme di cancro potrebbe essere un sistema efficace per abbassare il rischio di ammalarsi. Commenteremo la notizia insieme al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, ma la notizia ci darà spunto anche per parlare di cronoterapia. In pratica ogni farmaco deve essere assunto in momenti particolari della giornata e non in altri per essere efficace. 800 24 0024. Tasse! Tasse! Bellissime e adorabili tasse! Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco. Questa è buona. Sì. E allora, Robin Hood, le tasse, tra poco parleremo di questo argomento. Prima però vi dico intanto che per quello che riguarda la borsa oggi è una giornata negativa, per Milano calo dello 0,7%, più pesanti le altre piazze, torna a pesare naturalmente lo scandalo Volkswagen, tutti i titoli automobilistici sono di nuovo in tutta Europa in forte ribasso. Ma andiamo al tema di oggi, dicevamo le tasse, dichiarazione infedele o fraudolenta, omessi pagamenti, inasprimento di sanzioni, mamma mia. Iniziamo bene. Iniziamo bene, ad esempio, ad aprire il microfono che magari partiremo meglio. Ci vengono i brividi solo a sentir parlare di questi argomenti. Se poi dovessimo incappare in qualcuno di questi reati tributari, peggio ancora, perché cominciare la settimana proprio su questo argomento, perché sei un po' sadica, e sono un po' sadica, però purtroppo queste cose pure bisogna saperle, perché questo è uno dei temi di maggiore attualità. Questa è la parola chiave di Cuore Denari, attualità. Il tema, uno dei temi di maggiore attualità di questi giorni, anche se cerchiamo di sfuggirgli, l'attuazione della delega fiscale da parte del governo che modifica totalmente il regime penale tributario. Cambiano così i reati fiscali, ma anche la possibilità di estinguerli, di cancellarli dalla nostra vita. Tutte informazioni che è bene sapere. Allora stamattina faremo un concretissimo vademecum con un esperto del Sole 24 Ore, che è il dottor Antonio Iorio, che salutiamo e che in questi giorni è l'autore quasi esclusivo dei pezzi sul Sole su questo argomento, Sole che sta pubblicando a rate, diciamo a tappe, la guida pratica alla riforma fiscale. Dottor Iorio, buongiorno, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Allora, che cosa significa questo cambiamento del reato tributario? Quali sono i reati tributari più diffusi fra i piccoli contribuenti, quelli nei quali si rischia di incorrere anche in buona fede? Che cosa si rischia? In questi giorni, come vi dicevo, Il Sole pubblica una serie di guide pratiche sull'argomento e quindi anche noi facciamo un punto sulle ricadute concrete del reato fiscale grazie alle domande che ci potete rivolgere all'800 24 00 24. Allora, dottor Iorio, subito la prima domanda per lei. Sta cambiando, da quello che abbiamo capito, in maniera abbastanza radicale il regime penale tributario. Come mai si è resa necessaria questa modifica e che caratteristiche ha il nuovo regime? È più aspro o un po' più light, più leggero del precedente? Allora, diciamo che sicuramente è più razionale, perché nel senso che prima, o almeno fino a quando non entra in vigore questo decreto, che ormai è imminente, per commettere un reato era sufficiente evadere delle somme abbastanza basse. Per avere un'idea, parliamo di 50.000 euro di imposte evasa e di omessi versamenti di 50.000 euro. La vera novità è che il legislatore si è reso conto di questo fatto e ha aumentato queste soglie. A scanso di equivoci, questo non vuol dire, come ogni tanto si sente dire, che allora non si combatte più l'evasione. Si sta dicendo che per avere un procedimento penale devi evadere un po' di più. Nella fattispecie i 50.000 sono diventati 150 nel caso, per esempio, della dichiarazione infedele, però comunque uno viene sanzionato sotto il profilo tributario. Quindi, diciamo, è stata fatta una scelta, a mio avviso molto corretta, di evitare di intasare i tribunali penali, anche perché la lotta all'evasione è giusto che per i casi gravi si faccia anche nel tribunale penale, ma altrimenti è giusto che si faccia dall'Agenzia delle Entrate, con delle sanzioni che sono anche abbastanza pesanti, ma che non riguardano la libertà personale. Certo. Quindi, diciamo, è stata aumentata normalmente la soglia. Ovviamente a fronte di questo sono state inasprite le pene. Certo. Quindi... Adesso ne parleremo, dottor Iorio. Lei parlava appunto della circostanza, della necessità di snellire le procedure in tribunale, tanto che il Sole 24 Ore oggi pubblica anche la guida al contenzioso e si focalizza sulla mediazione, no? Per poter dirimere le conflittualità di carattere fiscale, perché è uno strumento che peraltro è entrato nel nostro ordinamento da poco, ancora a molti non tanto conosciuto, perché si spinge naturalmente non tantissimo, proprio perché naturalmente sappiamo quanto anche il mondo legale si sia opposto, no? Allo strumento di conciliazione per dirimere il contenzioso fiscale, e non solo quello. Sì, diciamo che almeno dal punto di vista del contenzioso fiscale la vera novità è che in campo fiscale è obbligatorio, quindi non c'è possibilità di opporsi. Esatto, nel senso che almeno per esempio per quelle tributarie, le cause tributarie fino ad oggi, fino a 20.000 euro bisogna necessariamente farla, la mediazione quindi si farà. Allora, andiamo a conoscere un po' meglio questo nuovo regime penale tributario. Da un lato, alcuni illeciti penali non saranno più tali, per esempio gli omessi versamenti sotto determinate soglie, come ci diceva poco fa il dottor Iorio. Sì. E questa forse è la cosa più importante, che riguarda, come giustamente dice, sottolineava lei, anche i piccoli imprenditori, perché si tratta veramente di un reato, del reato forse che palesa meno spessore, diciamo, delinquenziale. Qual è questo reato? È quello di colui che dichiara tutto, quindi non fa un'evasione, dichiara tutto, solo che poi quando va a versare, parliamo dell'IVA e delle ritenute, e non c'è soldi per farlo e non le versa. Fino ad ora questo reato scattava se non l'omesso versamento riguardava somme superiori a 50.000 euro. In futuro questo diventerà 150 per le ritenute e 250 per l'IVA. Quindi di questo ne potranno beneficiare tutti, perché? Perché per il principio del favor rei, tutti quegli imprenditori che fino ad oggi hanno avuto dei procedimenti penali per omessi versamenti inferiore ai 150 per le ritenute e a 250 per l'IVA, poiché ora il reato cambia, per il passato, per il favor rei, non potranno essere più perseguiti. Quindi questo, diciamo, è una bella notizia. Certo. Peraltro, dottor Iorio, poi magari ci potremmo tornare anche più avanti nella trasmissione, ma magari chiariamolo subito questo aspetto. Allora, un imprenditore, un piccolo contribuente fa una regolarissima dichiarazione dei redditi, poi non può fare i regolari versamenti perché non è nelle condizioni economiche di farlo, no? Sì. Quindi cade in una condizione di reato fiscale pieno, e con che tipo di sanzioni previste per una situazione del genere? Ripeto, se in futuro supererà i 150.000 e 250.000 per l'IVA, e la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Ma lui non può avvisare il fisco in tempi, come dire, congrui e poter dire: guardate, non riesco a fare questi versamenti. Ecco. Purtroppo no, c'è la possibilità però di rateizzare. Esatto, sì, ma soprattutto c'è la possibilità tutta giudiziaria di riuscire a dimostrare che ha fatto di tutto per pagare quelle imposte e non c'è riuscito. Però non è così semplice, nel senso che normalmente cosa succede? Che l'imprenditore in realtà non versa l'IVA, non versa le ritenute, non perché vuole evadere, perché se le ha dichiarate non c'ha l'intenzione di evadere. Certo, ma perché esempio, non ce li ha. Esatto, perché vuole pagare i dipendenti o vuole pagare i fornitori per evitare fallimenti. Purtroppo la giurisprudenza di legittimità ci dice che il fisco non può essere trattato peggio del dipendente piuttosto che peggio del fornitore, per cui essendo tutti su uno stato di parità lui si deve occupare principalmente di pagare le imposte. Quindi ora ci sarà la possibilità di rateizzare, di cui poi magari parliamo, però diciamo di scusa tra virgolette per non incorrere in questo reato. Se si supera la soglia ce ne sono ben poche. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Le anticipo già, dottor Iorio, che in tanti stanno cominciando a mettersi a candidarsi appunto per intervenire questa mattina, ed effettivamente c'è chi ci sta già spiegando di situazioni veramente marginali, anche se in realtà è marginale per magari il tipo di importo che i nostri ascoltatori ci stanno indicando e che non riescono a pagare, però per la vita di queste persone sono situazioni invece di una rilevanza enorme, perché poi spesso quando non riesci a pagare le tasse sei un contribuente modello, questa è un'onta personale dalla quale qualche volta proprio emotivamente è difficile da sopportare. Detto questo, abbiamo già il traffico, volevo poi parlare di criminalizzazione di nuove violazioni. Ti è piaciuta questa? Di sembra nuove quasi violazioni uno scioglilingua, ma esatto, mi piace. Eppure in questo chiederemo al nostro esperto. Regime tributario si parla anche di questo. Traffico, ne parliamo tra un istante. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Cuore e Denari. Vive ma chi è metà, e tasse. Vive ma chi è metà, e tasse. Prima parte di Cuore e Denari, stiamo cercando insieme di capire per bene le novità approvate dal governo in materia di reati tributari, in quali situazioni bisognerà tenere gli occhi bene aperti. Naturalmente una partenza della settimana un po' in salita in quanto ad argomenti, ma noi sappiamo bene, con Nicoletta spendiamo tanto fiato sul tema della consapevolezza su tanti argomenti, no? Anche quello fiscale, anche se qualche volta è indigesto, bisogna però essere consci delle novità che arrivano. 800 24 00 24, continuate a raccontarci. E fra un po' adesso sentiremo qualcuno di voi se vi è mai capitato di essere stati multati per un errore nel pagamento delle tasse fatto totalmente in buona fede, o se il fisco vi ha contestato in qualche maniera il ritardo con cui avete fatto, certo, un versamento. Sappiate che adesso per determinati importi il fisco, se siete in ritardo, se omettete certi versamenti, sarà un po' più, morbido, un po' più tenero. Comunque, più razionale, ha detto il dottor Iorio. Tirate fuori tutti i vostri dubbi in materia di fisco e reati tributari anche al 349-238-6666, pronta per rispondere a tutti i vostri dubbi, e raccontateci anche le vostre storie. Il nostro esperto, certo, il dottor Antonio Iorio. Sentiamo subito Sergio dalla provincia di Macerata, che salutiamo. Sergio, benvenuto. Ciao Debora. Buongiorno. Nostra conterranea e siamo orgogliosi. Grazie, ma che carino. Bella. Vabbè, beh, che anche tu partecipi, no, sei nella mia vita di martigiana. Sergio, ci dica cosa è successo, allora, nella sua vita di contribuente, vite difficili, quelle di tutti noi. È successo che intorno ai 60 anni mi sono trovato disoccupato, la fabbrica aveva chiuso. Mm-hmm. La pensione ancora un po' lontana, La pensione ce l'avevo un po' bassa, ma la Fornero ha fatto la riforma, mi sono trovato disoccupato e senza pensione. E ho fatto la disoccupazione per 2 anni, poi finita la disoccupazione, posti di lavoro ne ho perché ero troppo anziano per le fabbriche, ho preso una partita IVA per mangiare. A questo punto, a 2 anni che ho la partita IVA, ho fatto la regolare denuncia, ma non ho fatto i versamenti perché se mangio, perché non ce la faceva, no, certo, perché ho fatturato intorno ai 900-1000 euro, non è che ti arricchisci con questo lavoro. A sto punto io sono un nulla tenente, L'uniche mie risorse sono 35 anni di contributi. INSE, contributivo, no, quello non retributivo, non l'altro. Ecco, sì, quello vero, 35 anni veri che mi tengono, che sono miei, tengono loro, e le fatture di ogni mese. E se io non perché non vedo in futuro che riuscirò a pagare quello che ho denunciato. Quanto dovrebbe versare Sergio in quanto è in arretrato con l'amministrazione fiscale? Ma dovrei avere sui 3-4 mila euro, certo, compresi i contributi IMSS, ma anche di più. Sergio, aspetti lì, allora le facciamo fare una piccola consulenza volante da parte del nostro Antonio Iorio. Allora, un importo veramente piccolo, che cosa potrebbe fare il nostro ascoltatore? Sicuramente la notizia positiva è che non ha mai, con queste cifre non commette reati, quindi, ecco, quindi almeno questo è scongiurato, quindi mai un procedimento penale, nulla. L'importante è che lui tenga la contabilità correttamente, e dichiari come mi sembra che abbia fatto finora. Sì. Succederà che probabilmente dal punto di vista fiscale gli arriverà una richiesta, un avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate, col quale gli si dirà che a fronte di una dichiarazione in cui c'è un debito di imposta di 2.000 euro non risultano i versamenti. Mm. A questo punto lui potrà, uno, provare a vedere se l'Agenzia delle Entrate, se lui ha la possibilità economica di rateizzarla, e quindi addirittura si potrà rateizzare fino a 8 rate trimestrali, ora probabilmente le aumenteranno, o addirittura non pagando, se gli arriva la cartella di Equitalia, potrà portarla a 72 o 120 rate. Mm. Quindi forse, secondo me, se le cifre sono queste, poiché passerà del tempo, converrebbe in qualche modo provarlo, quando arriveranno questi atti, a rateizzarla, perché certo, comunque restare a vita un debitore dell'erario, insomma, non è bello. No, sperando che naturalmente lui possa nel frattempo, esatto, aver ripreso un po', esatto, a lavorare, a fatturare. Fermo restando che, come lui precisava, non avendo nessun possesso di nessuna proprietà, né nulla di aggredibile, se non, diciamo, i crediti che lui può vantare presso i terzi, al di là di un pignoramento presso terzi, ma bisognerebbe capire di che si tratta, lui non rischia alcunché, certo, però voglio dire, è vero anche il ragionamento che non è che perché si rischia, non si rischia nulla, non bisogna pagare le imposte. No, assolutamente. Certo. Sergio, mi sembrava assolutamente di tutt'altro avviso, anzi, esatto, era molto, esatto, come la sua voce, esatto, indicava chiaramente quanto fosse alta la sua preoccupazione anche per non riuscire a rispettare questi pagamenti. Quindi gli suggeriamo di aspettare l'arrivo dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate ed eventualmente concordare un piano di rateizzazione quanto più leggera possibile per la sua situazione economica. Dicevamo prima, dottor Iori, allora, che questo nuovo regime penale tributario criminalizza nuove violazioni, come per esempio il caso dell'omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto. Ci traduca mamma in termini mia umani questo concetto. Altro che medichese, qua sì, tra il fisco e il medichese veramente sono sempre lì che fanno a gara tra chi parla in maniera più complicata. Allora, praticamente chiunque fa dei pagamenti a terzi, immaginate il datore di lavoro rispetto, esatto, il sostituto d'imposta, esatto, che tipicamente per un lavoro dipendente oltre a fare la dichiarazione dei redditi dell'IVA, dell'IRAP, deve fare anche il 7, il cosiddetto 770, cioè dire la dichiarazione in cui indica chi sono i soggetti a cui ha dato degli stipendi, dei compensi e le ritenute che gli ha fatto. Fino ad oggi l'omissione di questa dichiarazione non era reato. In futuro, se qualcuno dà quindi degli stipendi ai dipendenti, dei compensi ai professionisti e non fa la dichiarazione, in futuro sarà reato, però il reato scatta se, oltre a non a fare la dichiarazione, omette anche di versare le ritenute che gli ha operato. Quindi, per capirci, se io ho 10 dipendenti a cui do 700 euro perché 200 li trattengo per ritenuta, il reato lo commetto se non presento la dichiarazione e inoltre ometto di versare ritenute per importi superiori a 50.000 euro. Quindi siamo una fattispecie abbastanza, diciamo, anche pesante, nel senso che ci vuole una doppia omissione, sia quella di non presentare la dichiarazione, sia quella di non versare le ritenute che sono state operate. Il delitto di omessa presentazione è sfuggito a me o non ce l'ha detto quanto e come viene sanzionato? No, non l'ho detto, purtroppo è sanzionato con la reclusione fino a 4 anni. Mamma mia. Quindi attenzione, perché questa è veramente un po' più... Ecco, e attenzione perché, visto che ci troviamo, perché la scadenza di questa dichiarazione per quest'anno era il 21 di settembre. Allora molti pensano, poiché la nuova norma entrerà in vigore dopo il 21 settembre perché ancora non è andata in gazzetta, io quest'anno non c'ho questo problema. Ecco, attenzione perché La stessa norma purtroppo ci dice che questo reato si consuma trascorsi 90 giorni da quando devo presentare la dichiarazione. Quindi, poiché la dichiarazione di quest'anno la devo presentare il 7 settembre, il 21 settembre, il reato non l'ho consumato il 21 settembre, ma dopo 90 giorni. Poiché tra 90 giorni, dal 21 settembre, andiamo quindi intorno a 20-21 dicembre, i nuovi reati sono entrati in vigore, si rischia che anche chi non l'ha presentato quest'anno commette il nuovo reato. Quindi attenzione, soprattutto in questi casi in cui ovviamente questi regimi sono transitori e cadono sempre a cavallo tra appunto una scadenza fiscale ed un'altra. Poi ne abbiamo talmente tante che in qualunque momento dell'anno arrivi un nuovo regime fiscale, cade sempre addosso a qualche periodo complicato. Allora, qualche ascoltatore che ci sta scrivendo: anche se sono stato condannato in primo grado per mancato pagamento IVA, aspetta, questo probabilmente è un messaggio che è il seguito di un altro, adesso ritroviamo. Vediamo un po' quello di Michela che chiede, ad esempio, se ho già un decreto penale di condanna per non aver versato l'IVA per 183.000 euro definitivo, ma non ancora esecutivo, posso chiedere la revoca decreto penale invocando la nuova normativa? Oppure sì, devo attendere il primo gennaio 2016? L'ascoltatrice deve aspettare che il decreto legislativo entri in vigore. Che vuol dire? Vuol dire che quando andrà in gazzetta, si parla della prossima settimana, dovranno decorrere altri 15 giorni, dal 16° giorno entra in vigore la nuova norma. Quindi lei, che ha omesso di versare 183.000 euro di IVA, non ha commesso più un reato per la nuova norma, perché l'IVA, abbiamo detto, l'omesso versamento scatterà a 250 e quindi dovrà andare dall'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto penale di condanna e chiedere di non scontare più la somma che gli è stata intimata nel decreto penale di condanna, quindi ne beneficerà anche lei. Quindi è una buona notizia. Speriamo, infatti, ci pare di sì. Allora, sono indecisa se sentire la domanda di Roberto da Milano o far spiegare ad Antonio Iorio la dichiarazione infedele. Sentire Roberto e poi gli rispondiamo al ritorno dal giornale radio e sulla dichiarazione infedele, un po' anche leggerina. Parliamo appunto di questo argomento nella seconda parte della trasmissione. Roberto, eccoci a lei. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, veloce perché tra guardi, un pochino andiamo in pausa. Sì. Io avevo un problema, perché volevo sollevare questo problema, che a volte le banche dati del fisco non si parlano, perché tante volte mi sono arrivate delle ingiunzioni di pagamento per omessi pagamenti dell'IRPEF, diciamo, o dell'IRES, e invece io potevo compensarli con dei crediti IVA. E le banche dati non si parlavano, sempre costretto ad andare dal commercialista per sistemare Roberto, solleviamo questo problema con Antonio Iorio e cerchiamo di capire anche questo mancato dialogo fra le banche dati dell'amministrazione fiscale, quanto spesso costa anche ai contribuenti in regola con tutto, ma che invece a loro non risulta tale. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Lo sanno tutti, Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Vi presenta Cuore e Denari. Poco di zucchero, la pillola va giù. A proposito di pillole e pilloline, oggi ci concentreremo su una notizia apparsa su tutti i giornali. In questi giorni l'aspirina negli Stati Uniti è stata inserita nella lista delle armi antitumore. Assumete l'aspirina, l'aspirinetta, la cardiospirina? Chiamateci, ma diteci anche l'ora in cui prendete questa pillolina. Perché? Perché parleremo di cronoterapia. Ogni cosa al suo tempo, anche l'assunzione dei farmaci a un momento ideale. Questa indicazione arriva dalla cronobiologia, una scienza medica che, come dice il nome, studia i ritmi dell'organismo. Ne parleremo tra poco, 800 24 00 24 per scoprire il vostro momento ideale. Io non pago le tasse perché non ho più soldi dentro le tasche, sono troppe le spese. Beh, in qualche maniera il tema della cronobiologia mi ha fatto pensare, dottor Iorio, mi dica se questo parallelo è un po' azzardato, questo parallelo a cui ci ha invitato Nicoletta. Comunque anche le tasse hanno i loro tempi, per cui bisogna rispettare. Esatto, sì, no? Assolutamente. Non so se la cronobiologia studia quella, ma è perfetto. Oggi coniamo il concetto di cronobiologia fiscale, il che veramente siamo nel territorio dell'assurdo, ma noi qua a Cuore Denari possiamo fare tutto. Detto questo, l'ascoltatore precedente, dottor Iorio, ci ha sollevato la questione della compensazione, esatto, tra debiti e crediti fiscali. Me lo riassume lei il caso del nostro amico Sergio, sì, mi pare si chiamasse. Sì. Lamenta, se ho capito bene, che banche dati che non si parlano, esatto, sostiene lui. Nonostante lui vanti, non so, un credito IVA per cui poi non va a versare determinate imposte utilizzando questo credito, non sempre l'Agenzia delle Entrate riesce a intercettare queste due, diciamo, queste due le questioni opposte, e quindi a dire che il versamento non doveva essere fatto. Eppure ai fini del redditometro queste banche dati sono state, come dire, migliorate anche nelle loro capacità di dialogo. Devo dire che onestamente il problema si sente sempre meno, nel senso che obiettivamente c'è un grosso sforzo anche da parte dell'Agenzia delle Entrate di aggiornare queste banche dati. Capita ancora, in verità, che per degli errori, spesso anche formali, purtroppo non ci si rende conto che il versamento è stato fatto. Mi spiego meglio: se io sbaglio il codice tributo, perché purtroppo per andare a versare l'IVA ad esempio devo inserire un certo codice tributo, e sbaglio un numero o una lettera, purtroppo la banca dati, che è una macchina, per lei quello non è un versamento dell'IVA, è un versamento che non è stato fatto. Allora ecco che da qui, come diceva il telespettatore, si mette in moto tutto un meccanismo. Però del resto, voglio dire, io penso che sia un po' il prezzo che bisogna pagare di un controllo così di massa e così diffuso per tutte le dichiarazioni. C'è da dire che obiettivamente in molti casi, o con una telefonata o con un sistema informatico con cui, attraverso il quale si può interloquire con l'amministrazione finanziaria, che si ripristina un po' la situazione di chiarezza, spesso li annullano anche telefonicamente, certo. Non è andiamo ai casi invece, tra virgolette, sempre per continuare anche in questo nostro legame tra l'ambito medico, se vogliamo, e l'ambito economico e fiscale, andiamo alle situazioni ancora patologiche, no? Quindi chi non è in regola con i versamenti nei confronti del fisco per tutta una serie di ragioni. Prima abbiamo affrontato il tema degli omessi versamenti in termini generali, abbiamo parlato dell'omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta, andiamo a quella, dottor Iorio, che viene definita la dichiarazione infedele. Possiamo intuire che cosa indichi questo concetto, ma cosa cambia con le nuove norme? Ecco, sostanzialmente la dichiarazione infedele è il reato del contribuente che non dichiara, quindi mentre prima dichiarava e non versava con gli omessi versamenti, qui è colui che non dichiara. Quindi, per capirci, io ometto di fatturare, per cui quando vado a presentare la dichiarazione, la mia dichiarazione è infedele. Perché è infedele? Perché non rispetta il mio reale falognori, insomma. C'è un po' di nero, quindi, di diciamo, troppo, insomma. Ecco, diciamo che qui già di questione, no, di errori, di necessità, insomma, c'è poco scusanti, esatto, ce ne sono un po' meno, perché dobbiamo essere anche obiettivi. La novità qual è? È che fino ad oggi questo reato scattava se l'imposta evasa, non l'imponibile, l'imposta, che vuol dire, quindi, se io metto di fatturare 100.000, 100.000 è l'imponibile, l'imposta che io evado è l'IRPEF e l'IVA relativa ai 100.000, quindi fino ad oggi questo reato scattava se l'imposta evasa era superiore ai 50.000, in futuro questa soglia di 50.000 viene portata a 150, quindi diciamo scatterà per casi un po' più gravi, perché per avere un imposta evaso superiore a 150.000 euro bisogna fare un po' bisogna mettersi d'impegno su tutti i fronti, direi, esatto. No? E poi l'altra novità è che fino ad oggi nel calcolo di questa imposta evasa l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza consideravano sia i ricavi non dichiarati, quindi non so, il nero, per essere un po' brutali, sia i costi non deducibili, quindi non so, io mi acquisto un qualcosa, secondo l'amministrazione finanziaria quel qualcosa che ho acquistato non me lo posso dedurre. Prima nel calcolo dell'imposta evasa loro mettevano sia i ricavi sia i costi. Oggi invece la legge, fortunatamente, condivisibilmente, chiarisce che se il costo è stato sostenuto veramente, anche se non è deducibile, non concorre ai fini dell'imposta evasa penale, evidentemente. Quindi Per capirci, se io ho calcolato male le spese di pubblicità piuttosto che le spese di rappresentanza, sì, o mi sono dedotto un costo che non potevo, da oggi in poi quell'imposta che mi viene rettificata non rientra nella soglia dei 150.000 che fa scattare il reato. Mi fa male la testa, ma me lo farò passare poi prendendo una pillola, evidentemente nell'ora giusta. Adesso ecco, chiederemo ai nostri esperti. Intanto abbiamo i nostri ascoltatori. Esattamente, all'800 24 00 24. Ma andiamo avanti, Paolo da Ferrara, poi andiamo velocemente verso la conclusione di questa parte di Cuore e Denari. Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti voi. Un piccolo quesito: il problema dei dati, appunto di confrontare i dati dalla parte del delle tratte, è quello che mi preoccupa di più, cerco di prevenire prima che curare. Le faccio un esempio: l'Agenzia delle Entrate si avvale del catasto per qualsiasi tipo di contratto d'affitto, eccetera. A me risulta che ho 25 abitazioni, non so dove, al catasto quando non è probatorio. Ma come fa lo Stato a affidarsi a un ente che non è probatorio? Cioè, allora, vabbè, Paolo, sa lì apriamo lo scenario sulla riforma del catasto. Adesso non so se lei ci ha raccontato un caso a titolo di esempio, se quello è la situazione nella quale si trova veramente. Abbiamo in ballo ancora la riforma del catasto per tutta una serie di problematiche. Iorio, adesso non so lei quanto sia esperto anche su questo, voleva commentare la considerazione dell'ascoltatore di Ferrara. Obiettivamente è noto che ci sono alcune situazioni, realtà immobiliari in determinate zone d'Italia, che sono anche abbastanza arretrate come aggiornamento, però in realtà questo è legato esattamente a quello che dicevate voi da spunti, cioè alla riforma, quindi non c'è dubbio che debbano essere parificate queste banche dati aggiornate, insomma. Prima di salutarla, dottor Iorio, allora certo è un tema molto complicato, molto ampio. C'è un'ultima raccomandazione che dobbiamo fare ai nostri ascoltatori e che nel corso dei punti che abbiamo toccato questa mattina non abbiamo toccato in maniera sufficientemente approfondita, che vale la pena ribadire, o qualcosa che non abbiamo detto l'importante? Secondo me tutti quelli molti contribuenti, molti imprenditori che in questi anni purtroppo, soprattutto per gli omessi versamenti, sono stati condannati, hanno avuto un processo penale per questi, purtroppo per questi omessi versamenti, perché non c'è una disponibilità economica, dobbiamo sperare che non abbiano archiviato mentalmente la loro situazione penale, perché il fatto, ripeto, che oggi, perché l'archivio c'è qualcuno che lo riapre, esatto, oggi il fatto che la soglia oggi si sia alzata fa venir meno ciò che hanno commesso in passato, quindi diciamo, tra virgolette, il termine è sbagliato, non è tecnico, c'è una sorta di riabilitazione, perché fatto non costituisce più reato. Quindi, però questo non lo si può fare d'ufficio, non può essere la procura o il tribunale, ma deve essere il contribuente che si deve fare parte diligente e dire attenzione, perché questo reato, quindi non so se è in appello, dovrà essere il suo difensore a dire attenzione, perché mi avete condannato per questo reato, ma oggi non è più tale. Certo. Insomma, sono cambiati i tempi, potrebbe dire, no? Grazie per questa indicazione, che speriamo sia utile a molti dei nostri ascoltatori. Grazie ad Antonio Iorio, buona giornata, a presto. Ed è tempo di cambiare argomento, parleremo proprio di tempi, parleremo anche di cronobiologia. 800 24 00 24 è il nostro numero verde, ancora a vostra disposizione sino alle 12. La parte di Cuore prende spunto da una notizia che avrete sicuramente letto sui giornali, che riguarda l'aspirina, uno degli farmaci più antichi, più conosciuti. Anche Ippocrate menzionava le virtuose proprietà della corteccia di salice, e fa notizia che in America un panel di esperti l'abbia inserita nell'elenco dei farmaci antitumorali. Allora vogliamo leggere la notizia con un grande esperto, il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che è in linea con noi. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Allora, professore, noi partiamo da questa notizia, e cioè che l'aspirina ha delle proprietà antitumorali. In realtà di queste proprietà se ne parla da tempo. Voglio citare uno studio del 2009 del Mario Negri, che aveva sottolineato proprio l'azione antitumorale di questo farmaco. Ma cosa c'è di nuovo allora? Ma la cosa nuova è che un gruppo negli Stati Uniti, che si chiama US Preventive Services Task Force, un gruppo che si mette a fare delle raccomandazioni per prevenire le malattie, ha fatto diverse raccomandazioni sul fatto non solo che l'aspirina prevenga le malattie cardiovascolari, e quello si sapeva, ma anche il cancro. E questo si è notato in grandi studi che erano stati fatti per un altro scopo. Tante volte la ricerca si vedono delle cose per caso, e questo si è trovato in un certo senso abbastanza per caso, guardando a tutte le persone che avevano un vantaggio dal prendere l'aspirina per malattie coronariche, per esempio, si è visto che quelle persone lì, rispetto a chi non prendeva l'aspirina, perché gli studi erano controllati, quindi c'era un gruppo di controllo che prendeva un placebo, si ammalavano meno di tumore al colon. Allora sono stati fatti tanti studi per capire se c'era un razionale per questo, e si è trovato il razionale, e adesso queste, la novità è la raccomandazione ufficiale che in certe condizioni può essere utile, sottolineo può, prendere l'aspirina per prevenire il cancro del colon. Ecco, quali sono queste condizioni in cui può essere utile? Andiamo un po' al profilo della persona che può beneficiare di queste proprietà antitumorali. Lei ha citato persone che assumono quotidianamente l'aspirinetta, cioè il principio attivo è lo stesso, però il dosaggio è inferiore, professor Remuzzi, è corretto? Sì, per problemi, sì, per problemi cardiaci, sì. Giusto? Sì, aspirinetta sono 100 mg di acido acetilsalicilico. Sì. Allora, questi studi hanno consentito a chi ha steso queste raccomandazioni di dire che gli adulti che hanno tra 50 e 59 anni possono avere un vantaggio nel prendere questa aspirinetta, non solo per quanto riguarda il loro problema di cuore, ma possono averlo anche per i tumori del colon, purché lo prendano ogni giorno per almeno 10 anni. Le persone che hanno da 60 a 69 anni, allora lì bisogna vedere, ci vuole il medico, uno non se lo può prendere da solo, in generale non si dovrebbe prendere mai da soli niente, perché lì la decisione, secondo le raccomandazioni di questo panel di esperti, è un po' individuale. Perché? Perché ci sono anche persone che di fronte a queste raccomandazioni, certi medici per esempio negli Stati Uniti dicono attenzione a dare l'aspirina alle persone sane, perché quello lo può esporre a effetti collaterali. Tipo per ad esempio l'emorragia. Sanguinare dallo sì, stomaco. Sanguinamenti. L'aspirina protegge dalla malattia delle coronarie, in quanto impedisce alle piastrine di aggregare in questi piccoli vasi arteriosi e di formare dei trombi. Però per lo stesso motivo l'aspirina può far sanguinare, e allora sanguina lo stomaco delle volte, l'aspirina ha anche un effetto irritante sulla mucosa gastrica, oppure possono esserci, sono molto rare, delle emorragie più gravi, per esempio delle emorragie del cervello, evidentemente questa è una complicazione grave. Quante certo. volte succede? Succede a 2 persone ogni 1000 che in un anno prendono l'aspirina tutti i giorni. Quindi mentre tra i 50 e i 59 anni queste complicazioni, che ci possono essere comunque, sono molto meno frequenti, le persone che hanno tra i 60 e i 69 anni sono in un certo senso più fragili, e quindi lì la decisione deve essere individuale. Per esempio il medico dirà se questo paziente ha un rischio emorragico per altre cause non gli aggiungiamo l'aspirina. E allora uno si chiede, ma quelli che hanno meno di 50 anni? Bravo. Non è necessario. Ormai il professor Remuzzi si fa le domande e si dà le risposte. Sì, bravo, sole. Per professore venga tutti i giorni. Bravo, allora, chi ha meno di 50 anni? Quelli perché, che ha meno di 50 anni, voi vorrete sapere, ecco lì non ci sono evidenze sufficienti per suggerire di utilizzare l'aspirina. Ma è anche logico, perché quando noi facevamo gli studi, o quando altri facevano gli studi per prevenire le malattie coronariche, non le facevano quelli giovani che non hanno le malattie coronariche, quindi non abbiamo dati per dire se anche i giovani possono avere vantaggio dell'aspirina nel prevenire il certo. tumore del colon. E allora ci facciamo un'altra domanda? Ma sì, poi io ho una domanda da farle anch'io, se vuole, ma dopo si faccia la domanda e si dia la risposta. E se uno ha più di 70 anni? Anche qui non ci sono evidenze sicure. Poi dopo i 70 anni i rischi delle conseguenze negative del prendere l'aspirina tutti i giorni cominciano a diventare importanti, e allora a 70 anni una cosa bella è che si deve smettere di fare tante cose, compreso di prendere l'aspirina. Allora, quindi ci sono le evidenze nella fascia d'età comprese tra i 50 e i 59, tra i 60 e i 69, ma la domanda di un nostro ascoltatore: casi di tumore del colon in famiglia, ho 54 anni, non ho problemi cardiovascolari, posso prendere quindi l'aspirina con un effetto preventivo? Io penso che la domanda di questo ascoltatore se la faranno in molti. Questa è una domanda fantastica, e questa è una domanda fantastica perché è quello che si sono chiesti molte persone, anche di questo gruppo che faceva le raccomandazioni. Per esempio, un certo dottor Johnson, che è un grande esperto di queste cose, un gastroenterologo, ha risposto alla domanda del nostro ascoltatore e dice: io sono molto preoccupato, dice questo dottor Johnson, che non passi questo messaggio. Bravo. Io prendo l'aspirina così evito di fare lo screening anche se ho una familiarità. No, questo messaggio non deve passare. Se ho una familiarità devo fare la coloscopia, tutti gli accertamenti, vedere se ci sono polipi, vedere se ci sono cellule inizialmente cancerose che possiamo trovare con una biopsia della mucosa del colon. Non è che adesso so che si può prevenire con l'aspirina, mi mette al riparo da fare questo. Le indagini che devono fare tutti coloro che hanno una familiarità. Questo è importantissimo. Questo è importante e questo è il messaggio che noi vogliamo sottolineare, stressare. Ringraziamo il professor Remuzzi che ci ha aiutato a leggere questa notizia, da cui noi prendiamo spunto, come anticipato, per parlare di coronoterapia. Anche i farmaci, l'assunzione dei farmaci ha un'ora ideale, ne parleremo tra poco. Intanto saluto il professor Remuzzi, che invitiamo a venirci a trovare qua. Ma vorrei ben vedere, mi pare che l'abbia promesso un sacco di volte qua, qua. Latitiamo, però davvero noi vengo, ancora siamo speranzose. Grazie professor Remuzzi, buongiorno grazie, a lei. Grazie, siete molto gentili, grazie, arrivederci. E salutiamo il professor Roberto Manfredini, che è direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lui era venuto a trovarci però. Sì, era venuto. E allora con abbiamo subito una domanda che arriva proprio sull'aspirinetta, sulla cardioaspirina. Che differenza c'è tra aspirina, aspirinetta e cardioaspirina, professor Manfredini? Che così poi andiamo. È una bellissima domanda, ma è facilissimo dare la risposta. Bene. Non c'è nessuna differenza. La molecola è l'acido acetil salicilico e quindi è l'aspirina. È stata chiamata così da sempre. Genialmente, nelle persone che curano un po' così l'immagine dei brand, dei nomi per fare presa, si erano accorti che se uno diceva alle persone malate di cuore di prendere l'aspirina, non la prendeva nessuno perché pensavano fosse per la febbre e quindi non importante. Bastava mettergli davanti il cardio, la molecola è la stessa, e automaticamente è aumentata la compliance perché è una molecola salvavita per il cuore, e quindi chiamarla cardioaspirina è la stessa cosa. Aspirinetta è perché l'aspirina pediatrica nel piccolo dosaggio da 100 mg per i bambini per la febbre, sì, mentre per il cuore bastano questi 100 mg. Quindi l'aspirinetta o cardioaspirina è un dosaggio più piccolo dell'aspirina normale, che ha una funzione sul cuore e non serve per la febbre perché sarebbe troppo poco. Adesso allora, cuore denari cardio 800 24 00 24. Andiamo a Roberto, che ci chiama da Vicenza, ha proprio una domanda per il professor Manfredini. Intanto vi faccio una convocazione col professor Manfredini, che è uno dei massimi esperti di cronobiologia, una scienza medica di cui abbiamo parlato tanto e che si occupa proprio di studiare i ritmi del nostro organismo. Vogliamo focalizzarci sul momento ideale per assumere i farmaci, cioè assumerli in quel momento in cui l'organismo ha più bisogno, è più recettivo e la funzione viene migliorata. Naturalmente tutte le domande potete farle per capire qual è e sapere qual è l'ora migliore per fare ginnastica, prendere, andare a scuola, lavorare, magari assumere alcuni carboidrati piuttosto che proteine. Noi siamo qua, soprattutto c'è il professor Manfredini. Roberto da Vicenza. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Buongiorno, complimenti a lei che ascolta Cuore Denari, esatto, che oggi diventa cardio, perché se quella parolina fisco cardio avere tutto questo successo, aggiungiamola. Grazie. Roberto. Ecco, la domanda che volevo fare al professore è questa. Io ho fatto la cardioversione perché da una fibrillazione atriale prendo la cardioaspirina da qualche mese. Ecco, e come oltre alla cardioaspirina prendo anche l'Almaritm, e volevo sapere qual era l'ora consigliata per prendere la cardioaspirina. Grazie Roberto. Professor Manfredini, prima di andare ai mercati, perché allora, anche noi abbiamo i nostri tempi, da Roberto a Roberto. La cardioaspirina è una molecola che ha un'azione che copre comunque la giornata, Quindi anche se alcuni autori hanno detto che per evitare il trombo, che è mattutino, forse è meglio prenderla la sera, in realtà dopo un giorno o due copre tranquillamente le 24 ore, quindi l'importante è prenderla sempre, tutti i giorni, e come abbiamo sentito anche dal professor Remuzzi, visto gli eventuali problemini che potrebbe dare a livello gastrico anche se il dosaggio è basso, dopo mangiato. Ok, tutto chiaro. Professor Manfredini, prima di andare ai mercati, ma quando si assume una terapia, ammesso di assumerla nell'ora giusta, questo ce lo dirà lei, è importante rispettare mantenere sempre lo stesso orario? Che so, io la prendo sempre a mezzogiorno o prima di correccarmi, e quindi, non so, orientativamente perché alle 11 di sera. Perché molti ascoltatori fanno fatica ad essere molto ligi al dovere. Questo lo posso capire, perché in effetti sembra un po' militaresco, però... Siccome abbiamo fatto già molti passi avanti, chi ha la mia età ricorda che molti farmaci andavano presi ogni 8 ore e quindi c'era il rischio di dimenticarsi, eccetera. Adesso molte molecole sono in monosomministrazione e garantiscono una copertura delle 24 ore. Abbiamo già fatto un grosso passo avanti, per cui il piccolo sforzo di essere abbastanza puntuali, in modo che comunque non lasciamo delle fasce scoperte della giornata. La mezz'oretta, l'oretta potrebbe non essere importante, però cerchiamo di essere puntuali. Mentre per gli antibiotici, mi sentirei di dire, lì mi raccomando, assolutamente una puntualità estrema, tutte le fasce che lasciamo libere dall'antibiotico, il microbo sta benino, non siamo coperti nella protezione. Grazie allora al professor Manfredini, che rimane con noi fino alle 12. Intanto è tempo. Vedi che sì, è tempo. Anche guarda, no, ma è incredibile come continuiamo a trovare legami sempre più forti tra l'economia e la salute. Quindi anche oggi la cronobiologia ci offre su un piatto d'argento il pretesto per ulteriormente rafforzare questa relazione. Mercati, a tra poco. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato e fino adesso niente lo ha fermato. Parliamo di tempo, anzi per essere precisi di tempi, perché oltre all'orologio che portiamo al polso o all'orologio, no, che abbiamo sul nostro smartphone, abbiamo degli orologini interni che regolano tutte le funzioni della nostra vita, scandendo per l'appunto, come si dice, i nostri ritmi, i nostri tempi. È la cronobiologia, la scienza medica che si occupa e studia i ritmi del nostro corpo, e questa branca della medicina ha prodotto nuove scoperte, delle applicazioni terapeutiche molto utili che giovano alla nostra salute e al nostro benessere. Allora cerchiamo oggi di capire, insieme al professor Roberto Manfredini, che è ancora in linea con noi ed è direttore della clinica medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, è uno dei massimi esperti di cronobiologia, cercheremo di capire come possiamo avvantaggiarci delle conoscenze della cronobiologia nel nostro quotidiano. Quindi chiamateci se volete sapere l'ora migliore per studiare, fare attività fisica, mangiare, andare a dormire, per conoscere i momenti out della nostra giornata, quelli in cui per una combinazione di circostanze il nostro organismo può essere messo un po' in difficoltà, ma chiamateci anche per capire se state assumendo farmaci, se le assumete nell'ora migliore. Professor Manfredini, ho detto tutto? Lei è pronto? Assolutamente tutto, anche di più. Per quello che riguarda i complimenti, anche di più. Comunque buongiorno di nuovo a tutti quanti i nostri ascoltatori e a lei Nicoletta e a Deborah, che siete bravissime. Grazie prof. Allora adesso vediamo, io vorrei proprio fare una sorta carrellata. Di carrellata di domande tipo il medico risponde, perché tante sono le curiosità che partono dai farmaci, arrivano all'attività fisica, sembra un po' di saltare di qua di là, ma la scienza proprio e la cronobiologia ci permette di capire di quali sono i momenti per fare una cosa, quelli più vantaggiosi e quelli un pochino meno. Randino, che ci chiama da Monza Brianza. Sì, buongiorno. Buongiorno Randino. Posso dire? Deve. Grazie. Comunque complimenti, siete bravine proprio. Bravine. Beh, bravine, ma possiamo... non nel senso diminutivo. No, no, no, grazie, perché si può sempre fare di più. Sì, i margini di miglioramento sono sempre larghissimi. E noi cerchiamo. Soprattutto la professionalità e anche la simpatia. Grazie. Che trasmettete. Senta, vorrei chiedere al dottore, io sono un cardiopatico da 10 anni dunque assumo una buona dose di medicine, da 10 a 12 al giorno. Francamente non mi è mai, a salvo il Coumadin e la cardiaspirina a stomaco pieno, però per tutte le altre non è mai stata un'indicazione, perlomeno che io abbia recepito come... Cioè, insomma, ecco, come da, ma così, ecco, volevo sapere, dato che a mezzogiorno prendo solo la cardiaspirina durante il pasto, sì, e l'antiacido dopo pranzo, adesso non mi ricordo più come si chiama, vabbè, di là di questo, e il Coumadin alle ore 16, sì, le altre 7, 8, 9 che prendo, posso prenderle, due domande, mattino e sera e insieme, oppure è sempre meglio distanziare tra una pillola e l'altra? Grazie Randino, lei ha fatto delle domande molto interessanti che permettono al professor Manfredini di prendere spunto dalla sua domanda per dare delle indicazioni generali. C'è il problema delle persone che assumono più farmaci, il nostro amico diceva 10-12 pastigliette, una cosa impegnativa, professor Manfredini, e poi l'orario e se poi ce ne dimentichiamo. Allora andiamo per ordine, ha parlato anche di antiacidi, antiacido ne parleremo anche per capire qual è l'ora migliore. Sono farmaci molto utilizzati. Professor Manfredini, ci affidiamo a lei. Il signor Randino, il nostro amico Randino, ha messo un po' di carne al fuoco. È vero, sicuramente i pazienti con lo scompenso cardiaco assumono una certa quota di farmaci, ma anche comunque di solito gli anziani, sono studi che dimostrano che più diventiamo anziani e più assumiamo un numero maggiore di pillole per vari problemi. Non sapendo adesso nel dettaglio quali siano le terapie del signor Randino, è meglio che comunque un passaggio, una richiesta al collega curante sia meglio farlo. Andiamo sul generale, probabilmente prenderà dei farmaci antipertensivi, sì, sicuramente, perché il paziente con lo scompenso deve tenere la pressione sotto controllo, controllata la propria pressione. Forse ne prende più di uno, probabilmente ne prende almeno due, perché le associazioni ultimamente si vede che è meglio prenderne due a un dosaggio un po' più basso anziché un solo farmaco a dosaggio alto. Ecco, se prende due o più farmaci antipertensivi, un consiglio molto semplice è di spostarne uno la sera. Cioè siamo un po' abituati che tutti i farmaci vengano presi alle 8 del mattino, con l'esclusione, ecco, come ha detto Sorrendino, della spirinetta a pranzo o di altro. Bisogna verificare caso per caso, alcuni farmaci hanno un'indicazione obbligatoria per la sera, alcuni consigliata, alcuni obbligatori al mattino. Quindi ecco, sugli antipertensivi adesso non possiamo entrare nel dettaglio di cosa può prendere, forse perché sarebbe una cosa un po' personalizzata e poi mi mancano gli estremi. Uno potrebbe essere spostato alla sera, magari chiedere consiglio al collega curante. Ecco, perché spostato alla sera? Voi siete arrivate a queste indicazioni proprio perché avete studiato esattamente. Ci sono delle forti evidenze che dimostrano che intanto una certa quota di persone, diciamo che durante la notte non rispettano quello che dovrebbe essere il ritmo fisiologico della pressione arteriosa, che dovrebbe avere dei valori molto bassi. Sì. Nelle persone normali c'è un picco alla mattina, c'è un picco al pomeriggio e di notte dovremmo avere dei valori molto bassi di pressione arteriosa. Questo entro certi limiti vale anche per chi ha l'ipertensione, magari durante il giorno ne vuole più alti, ma la notte comunque il cuore un po' riposa e la pressione un po' più bassa. In una certa quota di persone che si scopre essere sempre maggiore, in inglese vengono definiti non dipper, cioè non hanno il dip, cioè non hanno il calo notturno, è come non avessero questa specie di fossa disegnandola che ci può dare l'idea del fatto che c'è il calo notturno, e queste persone sono esposte quindi a fare una fatica lavorativa del cuore importante anche di notte, ricordando che il cuore è un muscolo ed è come facesse palestra 24 ore al giorno, battendo contro una pressione alta. Allora, spostando un farmaco alla sera, si è vista che aumenta di molto la copertura della protezione anche nelle fasce notturne e soprattutto nelle fasce delle prime ore del mattino, che come abbiamo detto più volte in corso di varie trasmissioni anche da voi, sono quelle un po' più a rischio per gli eventi cardiovascolari. E questo è già un consiglio che ha molte evidenze. Bene, quindi quindi questo ci suggerisce anche un altro consiglio, e cioè il momento ideale per misurare la pressione, quindi, e soprattutto capire se la terapia ci copre, professor Manfredini, sarebbe alla mattina. Io consiglierei di sì, perché c'è anche questo piccolo picco, che in alcuni non è poi così piccolo, dovuto al fatto che un po' tutti noi, quando ci alziamo, passiamo dal sonno alla veglia, quindi un po' di tachicardia, poi magari bisogna cominciare a pensare alle cose che si devono fare, le prime attività eccetera, quindi magari non appena alzati, ma comunque entro un'oretta, insomma, quando si stabilizza un attimo dal primo assalto dell'adrenalina che dice oddio, oggi ho tutte queste cose da fare, già lunedì è già mattina, perché sarebbe l'ora in cui rivelare un picco potrebbe essere utile per il medico, per il collega curante, per poter poi appunto essere efficace nella prescrizione. Tra l'altro lunedì è una giornata un po' a rischio, vero professor Manfredini? Non assolutamente... solo perché è difficile cominciare la giornata, ma la cronobiologia ha individuato il lunedì come il giorno nero della settimana. Ci dica un po'. È vero, c'è una letteratura più che consistente ormai per quello che riguarda un po' tutte le patologie acute, che vuol dire infarto, ictus, non so, rottura dell'aneurisma, eccetera, perché il lunedì mattina una serie di eventi che già sono presenti la mattina, ma il lunedì per il carico di stress, alcuni studi dicono che i valori pressori misurati con l'oltre durante la settimana hanno proprio un picco il lunedì, il weekend magari si fa qualche strevizietto alimentare e quindi l'assetto metabolico del lunedì non è proprio quello ottimale, insomma sono tante piccole tesserine che nelle persone a rischio, naturalmente non nel sano, possono far sì che lunedì insomma non sia una giornata come tutte le altre, quindi l'incidenza di queste malattie è proprio un grafico che tocca una massima il lunedì. Poi esistono lavori, questo interesserà Deborah, ma io li ho solo visti perché mi hanno chiesto colleghi, ho visto che mi hanno scritto da altre università eccetera, che hanno fatto studi per cui il giorno più brutto anche per la borsa, è vero, anche per il lunedì nero di Wall Street, come no, d'altro. È vero, è un crashing day, insomma, ecco, non è bellissimo, insomma, meno male che c'è Cuore Denari, dai, che ci rassura, che risolleva un po' il morale, insomma. E intanto, prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, noi abbiamo già la percezione che ogni cosa ha il suo tempo, ad esempio. Voi sapete qual è l'ora della febbre? Questo è il domandone di oggi e soprattutto che cos'è la febbre? È una domanda che il professor Manfredini mi ha confessato fa sempre ai suoi studenti. Davvero? 800 24 00 24 per rispondere al domandone qual è l'ora della febbre e che cos'è la febbre? Naturalmente giudice sarà il professor Manfredini, voi rispondete, intanto raccontateci, chiamateci, soprattutto se volete sapere il momento ideale per... Adesso noi stiamo parlando di farmaci, ma c'è già chi si candida per capire il momento ideale per fare attività fisica, c'è chi corre, c'è chi va in palestra, ma non solo. 800 24 0024 è tempo comunque di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, a tra poco. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta, state ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Eh sì, me la cantavo perché adoro questa canzone dei Pooh, Dammi solo abbiamo, un minuto. E noi li abbiamo avuti altro qua per che, un bel po' di tempo. Mi sono fatta firmare dei long plane da Red Canzian, quindi figurati, me lo ricordo bene. Allora, perché parliamo di tempo, c'è un tempo ideale per mangiare, dormire, praticare attività sportiva, è la cronobiologia a dirlo, ma c'è anche un tempo per assumere farmaci. Alcuni farmaci possono essere più efficaci se assunti in certe ore, perché devono avere proprio effetto nell'ora in cui devono agire sulla funzione specifica. Di questo stiamo parlando con il professor Roberto Manfredini, che è direttore della clinica medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Vogliamo leggere e ringraziare un nostro ascoltatore che ci ringrazia per le info, è un farmacista, chiede naturalmente anche l'aiuto del professor Manfredini e vuole sottolineare che la cardioaspirina o aspirinetta è un, anche se con dosaggio minore, dice che so che è paradossale, ma la cardioaspirina è un farmaco con obbligo di ricetta medica, dovreste ricordarlo tutte le volte che la nominate, non avete idea di quanti pazienti la chiedono quotidianamente senza avere la ricetta. Professor Manfredini. Il collega farmacista ha veramente ragione, purtroppo è così per tantissime cose, anche gli antibiotici ormai le persone se le vanno a comprare, cercano di acquistare da banco, perché magari gliel'ha detto il cugino dell'amico del portiere. Non va bene così, la maggior parte dei farmaci sono vendibili presso le farmacie con la ricetta medica, quindi in pieno sposo la richiesta del collega farmacista. Cioè il fatto che abbia un dosaggio minore non ci esonera dal fatto di... il fai di te non va mai bene. Mai. Neanche per l'acido acetil salicilico, questo è il nome del... questo è il principio della molecola, giusto? Alberto da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, è quasi vicino al professor Manfredini. Sì, mia moglie è ferrarese, quindi siamo quasi vicini di casa. Bene, allora Giovanni. Dunque... Alberto, scusi. Non si preoccupi. La mia domanda era questa. Il professor Veronesi, a proposito di prevenzione oncologica, sottolinea da molti anni il ruolo delle brassicacee nella prevenzione del tumore al colon, eccetera. È vero. Volevo chiedere, appunto, siccome mi hanno presentato un integratore ricco di tutti gli isocianati presenti nelle brassicacee, volevo sapere l'eventuale efficacia reale nella prevenzione appunto di questo tipo di patologia. Noi abbiamo dedicato, Alberto, tante puntate al ruolo preventivo e protettivo dell'alimentazione nei confronti di alcuni tipi di tumore. Abbiamo sottolineato anche, abbiamo avuto ospite il professor Veronesi, tra poco poi si apre un mese molto importante per la prevenzione del tumore al seno, un'occasione che ci porterà di nuovo a parlare dell'importanza di un'alimentazione varia ed equilibrata e di quello che ormai la scienza ha scoperto di proprietà di alcuni alimenti. Professor Manfredini, sicuramente cavoli, brassicacee, ma la domanda di Alberto riguardava appunto questi integratori. Lei che cosa suggerisce? Ammetto la mia voluta ignoranza su questo argomento, e ribadisco voluta, perché non mi occupo di integratori o di medicina che non sia la farmacologia tradizionale, non perché non ci creda, ma perché gli impegni quotidiani sono tali per cui uno deve un po' battezzare. Io dirigo un reparto di medicina interna a vocazione cardiovascolare e quindi naturalmente è anche lontana da me l'oncologia e quant'altro. Sono perfettamente concordo con quello che dicono gli esperti e quindi mi tolgo il cappello. Sul fatto dell'efficacia sono abituato a giudicare i farmaci o le sostanze sulla base delle prove di evidenza della letteratura internazionale, e quindi anche quando do questi piccoli consigli sulla cronoterapia si tratta di risultati ottenuti con studi randomizzati e controllati con prove di evidenza. Quindi se ce ne sono non li conosco sugli integratori. Comunque sull'effetto dei cavoli possiamo dire, sui cavoli andiamo tranquilli, poi adesso è la stagione. E sulla dietoterapia assolutamente ecco, sì, su questo A o B, certo, non è... Allora, magari con la dottoressa Titta potremmo rifare un'altra bella puntata di riepilogo di tutti quegli alimenti protettivi, certo, e noi preventivi. Puntiamo sull'alimentazione, andiamo a Franco, buongiorno, che ci chiama da Catania. Buongiorno. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, sempre interessantissima. Grazie Franco. Io ho 59 anni e 10 anni fa sono stato colpito da una DIA. Da allora prendo la tetraspirina tutti i giorni dopo pranzo. Sì. E mi sono accorto di un particolare, che non mi viene più, io faccio le elettriciste e lavoro spesso faccio antenne, lavoro sui tetti. Dicendo questa tasca non mi raffreddo più, cioè un mal di gola, un piccolo raffreddore mi colpisce, però non mi viene più l'influenza. Ho un nesso e sto prendendo la radio aspirina tutti i giorni. Grazie Franco. Professor Manfredini, dunque potrebbe essere questo, signor Franco, anche se devo dire mi è arrivato un po' a tratti. Allora prende la cardioaspirina perché ha avuto un TIA, da alcuni anni per via di un problema cardiologico con l'aspirinetta, e ha notato il fatto che non gli viene più la febbre, risparmiato dai raffreddamenti, dall'influenza, ho capito giusto? Sì, dalla febbre, che è proprio tra l'altro il nostro domandone. Della domandone. Ecco, allora della febbre, che cos'è la febbre? come dicevo prima, l'acido acetilsalicilico è stato scoperto per prima cosa proprio per le sue potenziali e importanti attività di tipo antipirettico, quindi per la temperatura, per abbassare la temperatura corporea quando c'è la febbre, e anche antinfiammatorio. In effetti, come dicevo prima, il dosaggio che si usa a scopo di protezione cardiaca rispetto a quello che si usa come antinfiammatorio è molto più basso. Tutti avrete presente che quando abbiamo la febbre prendiamo o quella formulazione di acetilsalicilico da 0,300, magari quella effervescente o anche per bocca, oppure, chi ha fatto il militare come me, le grosse pastiglioni da 0,500. Quindi il dosaggio pediatrico è 100 e per il cardiologico usiamo quello. Ciò non toglie che ha una sua efficacia. Quindi è possibile che in alcune persone, come nel nostro amico di Catania, anche una piccola dose di antinfiammatorio e di antipirettico lo protegga anche da quello, oltre che dalla produzione dei trombi. È assolutamente possibile. Professor Manfredini, vogliamo anche parlare di una grande categoria, no? Di farmaci, le richieste ne usiamo tanti, e mi riferisco a volte senza, no, l'indicazione del medico, ma mi riferisco ai farmaci antiacido. C'è un'ora ideale in cui consumarli, professore? Dunque, bisogna intanto stare attenti, ecco, ci sono gli antiacidi. E sì? Di solito gli antiacidi, proprio usando la terminologia giusta, sono quelli che devono proteggere acutamente e quindi devono un po' tamponare, insomma, vanno presi di solito dopo pranzo o subito prima, a seconda delle formulazioni, dalle molecole gastroprotettive, che sono quelli che producono, che cercano di non far produrre l'acido cloridrico dello stomaco. Sì. Come per esempio le due grandi famiglie, gli inibitori, gli anti-H2, cioè gli inibitori del recettore H2 dell'istamina, che erano quelli che andavano fino a qualche anno fa, sì, ranitidina, cimetidina, eccetera, e quelli più nuovi, che vengono chiamati PPI, inibitori della pompa protonica, che sono dei bloccanti della pompa che produce l'H, l'idrogeno, che fa parte dell'HCl, sì, cioè l'acido cloridrico. Sì, abbiamo, allora, pochi minuti, come certo, perché le domande sono arrivate. Si chiamano prazoli, così la gente capisce, sì, che si chiamano daobe, prazoli, eccetera, eccetera. Di regola è meglio prenderli al mattino. Sì. Quelli che finiscono in ina, ranitidina, eccetera, eccetera, è meglio prenderli la sera. Bene, ina, ecco, sera o lo mattina. Allora andiamo, perché così uno non ce la facciamo. Angela da Pistoia dice che l'orario della febbre sono le 17. Ottimo. Ed è giusto, ed è professor Manfredini. Ed quanto è, è la, che cos'è la febbre, professor Manfredini? Aiuti lei, Angela. Dunque, la temperatura corporea è praticamente come metterci un termometro che dica quanto calore produciamo. Le nostre cellule producono sempre calore perché lavorano, il massimo lo producono al pomeriggio. È lì. Quindi anche quando viene la febbre si alza in quelle ore che ha detto giustamente, verso le 17, perché è il momento del massimo calore dell'organismo. Grazie al professor Manfredini. Alla prossima. E ad Angela, complimenti, a domani. A domani.